Abbiamo iniziato ieri sera questo percorso delle culture con un bello spettacolo teatrale a Como. Ci è piaciuto molto, peccato che non c'era. Il percorso è strutturato in due weekend. Quindi il prossimo weekend, il 21, il 20, venerdì 20 sarà ancora uno spettacolo al Camanaco Volta, il 21 un altro convegno sui percorsi di certificazione partecipata. Diciamo l'assetto di questi due convegni, questo di oggi e quello del prossimo, parte da un assunto che diamo un po' per scontato, poi comunque tornerà nel dibattito: l'agricoltura come bene comune. Già nella PAC, politiche agricole comunitarie, esce un po' fuori rispetto alle prossime, diciamo, in scadenza la PAC. Nella prossima sta venendo fuori una linea che parte un po' da questo principio. Per noi agricoltura è un bene comune non solo per l'attività economico-produttiva, ma perché l'agricoltura ha un significato nei nostri territori e un valore che va al di là dell'azione produttiva. Quindi la tutela del territorio, la qualità dei prodotti che mangiamo e tutte cose che poi usciranno. A partire da questo assunto, noi abbiamo già fatto un percorso 2 anni fa, ottobre 2009, in cui avevamo un po' sondato qual è la situazione dell'agricoltura comasca. In realtà l'abbiamo sondato in questi ultimi anni lavorando direttamente con gli agricoltori. Siamo, qui rappresento l'isola che c'è, molti di voi la conoscono, quindi non sto a fare altre. E abbiamo organizzato questi eventi con Cortocircuito, cooperativa sociale che nasce dall'isola che c'è e che da un paio d'anni è nata, anzi in maggio, adesso facciamo 2 anni il compleanno, e che è formata da una 30 di gruppi d'acquisto solidale della provincia e da una 20 di piccoli produttori artigiani alimentari del territorio. Quindi lavorando sull'agricoltura un'idea ce la siamo fatta di qual è la situazione dell'agricoltura. Allora, e con questo percorso volevamo fare un passo in avanti, quindi cominciare a giocare un po' un ruolo non solo di consumatori, quelli che si servono all'agricoltura, ma anche collaborando con gli agricoltori. Vedere come la si può sostenere, e questa domanda, come si può sostenere l'agricoltura, la stiamo facendo con questo convegno alle istituzioni, col prossimo lo faremo ai consumatori stessi: come si può creare delle alleanze più forti per sostenere l'agricoltura. Oggi abbiamo invitato quindi alcune rappresentanti delle istituzioni, alcuni rappresentanti delle categorie dei produttori. In particolare, giusto per ordine di lontananza, Andrea Ferrante, presidente AIAB nazionale, viene da Viterbo, è venuto per noi, Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Poi, come categorie dei produttori, abbiamo Emanuele Bezzi di Coldiretti. È in arrivo Adonis Bettoni, presidente della CEA di Como, detto che quelle tre era qua. Poi abbiamo sulle istituzioni vere e proprie, invece abbiamo Achille Moglioli, grazie per aver accettato l'invito. Anche noi abbiamo invitato Poletrotti, che è l'assessore all'agricoltura, che però non poteva, e allora ci ha indicato l'assessore Moglioli, che tra le altre cose si occupa anche di marketing territoriale, ma più che altro in stretta collaborazione con Poletrotti. Quindi noi contiamo di far uscire da qui qualche sollecitazione, quindi ci auguriamo che ci aiuti a portarla avanti. Poi stiamo aspettando Gian Antonio Girelli, eccolo qua, salve, benvenuto, ci ha trovato, è riuscito a... qui è molto forte, però magari possiamo fare anche interagire man mano. Consigliere del PD Regione Lombardia e partecipa alla Commissione Agricoltura, ecco Donis Bettoni. Scusate, ti ho detto che ti aspettavamo, quindi... grazie, scusate. E poi arriverà, ci ha assicurato per le 3:30, Giulio De Capitani, che è l'assessore regionale all'agricoltura. Lo ringrazierò dopo, ci fa piacere che abbia risposto. Aspettiamo che ricordi oro. Ci hanno detto che di solito è di... e di parola, il fatto che si gira molto anche. Sì. E il fatto che si presti anche a partecipare a questo tipo di incontri è piacevole. Abbiamo un bel numero di relatori. L'impostazione della giornata l'abbiamo pensata un po' in questo modo. L'agricoltura è un bene comune, noi abbiamo un interesse particolare, qualcuno poi dirà di nicchia magari, come gruppi d'acquisto ci rivolgiamo e come piccoli produttori ci rivolgiamo a un tipo di agricoltura che magari facciamo anche fatica a dargli una definizione più contadina, più rurale, più di dimensioni piccole, non lo so, adesso vediamo. Abbiamo chiesto un aiuto a Andrea Ferrante per farci inquadrare un po' che tipo di agricoltura. E non vogliamo svilire l'agricoltura, diciamo che partiamo dal concetto che l'agricoltura è l'ultima ruota del carro nel sistema. L'agricoltura contadina, quella con cui a cui ci rivolgiamo quotidianamente sul nostro territorio, è l'ultima ruota del carro di un carro che già si è sostenuto l'ultima ruota. Quindi purtroppo stiamo parlando di un settore che per noi però è fondamentale. Perché le politiche con cui si guarda l'agricoltura è di sostegno ai grandi sistemi, laddove ci sono grandi sistemi, oppure è di marketing territoriale, quindi la cura del misultin, però poi la zucchina, che è quella, il pomodoro, che è quello che noi mangiamo quotidianamente, non lo troviamo, no? Al massimo qui troviamo la patata. E quindi vorremmo parlare di quel tipo di agricoltura e capire che cosa si può fare per quel tipo di agricoltura. Ah, non l'ho presentato qua Giuseppe Vergani. C'era il cartellino. Il cartellino c'è, però. Non sei istituzionale, quindi non no, è no, a caso. Infatti, però c'è un cartellino. È vicino a te. C'è un cartellino. Rappresenta la rete dei gas della Brianza. Okay. A parlare di gas abbiamo chiamato qualcuno esterno, stamattina ce la raccontiamo un po' troppo. Quindi io nell'ordine chiederei ad Andrea di farci un po' un'introduzione. Teniamo 10 minuti, un quarto d'ora, e poi magari nel dibattito sviluppiamo un po' l'ultimo filone, diciamo, su cui cercheremo di tendere. C'è stata una proposta di legge regionale del PD che ha ripreso una legge umbra di sostegno ai gas e alla filiera corta. La cosa ci interessa molto, come gas ci siamo sentiti in questi ultimo mese. C'è anche qualche rappresentante di qualche gas di qualche realtà e delle province intorno, siamo pochi ma anche sparpagliati come territorio, e ci aspettavamo di più sinceramente, come almeno dei nostri. Abbiamo avuto Agrinatura settimana scorsa, è stato uno sforzo non indifferente, abbiamo smosso l'impossibile per Agrinatura e a ridosso poi abbiamo fatto un po' fatica. Però quello spunto di quella legge ci sembrava interessante, no? Perché poi dovremmo arrivare lì, con quali forme si possono riconoscere e sostenere le pratiche che nascono da questi settori. E quindi niente, darei la parola ad Andrea e poi a seguire sviluppiamo il discorso. Tu mi dai anche i tempi, chiaramente. Sì. Che così mi inizia. Intanto buonasera, grazie moltissimo per l'invito, grazie sincero, perché questo è un territorio particolare e soprattutto per quello che state tentando di fare, anche per chi sta oggi qui a questo tavolo a parlare, non è facilissimo farlo in tutti i territori. Io ho la fortuna di andare in giro per l'Italia per tantissime iniziative e riuscire a mettere insieme tutte queste diversità non è proprio così banale, anche perché a volte a partire proprio dalle istituzioni queste province sono tanto denigrate, che appunto ci sono tanti che le volevano chiudere eccetera eccetera, poi invece in alcuni punti possono fare dei miracoli straordinari e quindi hanno una utilità reale. Quindi tutto questo per partire dal fatto che oggi è una giornata bellissima di sole, e quindi partiamo dai lati positivi. Oggi noi abbiamo uno straordinario momento di interesse rispetto a quello che è la piccola agricoltura contadina, la sostenibilità e il legame di nuovo fra chi produce e chi consuma, che soltanto pochissimi anni fa non era neanche nell'agenda della discussione. Allora, questo è un momento importantissimo che noi dobbiamo cogliere, perché la società prima ancora delle politiche, e questo poi è l'altro l'altro lato su cui bisogna affrontare. La società oggi è molto più avanti. Oggi i tentativi di organizzare e le risposte che vengono, dei luoghi di incontri fra produttori e consumatori, delle modalità di costruire dei modelli di distribuzione alternativa, le risposte, ed è un dato incredibile, l'unico canale distributivo in calo negli ultimi mesi sono gli ipermercati alimentari. Cioè l'ipermercato per la prima volta dopo anni conosce un meno 2%, ed è una cosa storica. È vero che il hard discount continua a crescere, però per esempio il dettaglio specializzato regge, la vendita diretta aumenta in maniera esponenziale, fenomeni culturalmente importantissimi come i gruppi acquisto solidali aumentano anch'essi in maniera esponenziale. Allora significa che qualcosa sta succedendo, e noi questo lo dobbiamo leggere immediatamente. Allora, se c'è una volontà, seppur oggi probabilmente non maggioritaria nella società, ma forte, che coinvolge alcune milioni di persone, perché il fatto che per esempio il biologico ha aumentato del 10% i propri consumi negli ultimi mesi, significa che ci sono diversi milioni di persone che si sono fatti delle domande e sono andate a comprare in un posto che può essere il supermercato, può essere il gas, può essere la mensa scolastica, può essere il dettaglio specializzato. E questo dice anche quanto è originale il biologico anche rispetto all'accesso al mercato, che abbiamo una vera democrazia di mercato nel biologico, cioè abbiamo una opportunità di arrivare sul mercato che è molto diversificato. Allora, se questo sta succedendo, noi dobbiamo trovare il modo di capire come sostenere questi processi, perché evidentemente sono una forte domanda che noi abbiamo in società, perché questa, la crisi, tantissimi motivi, probabilmente anche difficili da leggere tutti insieme, fanno sì che molti cittadini italiani e europei, perché il fenomeno è assolutamente europeo, si stanno ponendo delle domande: da dove viene il cibo, chi l'ha fatto, che cosa significa il mio atto alimentare. Allora, queste cose che sono delle realtà, cioè non sono delle diciamo dichiarazioni filosofiche, perché dietro queste cose ci sono dei numeri economici che stanno effettivamente cambiando alcune parti del settore dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare. Allora, dobbiamo capire come rispondere, perché sotto questo punto di vista, e qui invece il lato lato difficile, visto che già ci siamo consumati i primi 5 minuti, lato difficile sono le politiche. Allora lì dobbiamo tutti quanti iniziare a darci una mossa, perché sulle politiche invece stiamo indietrissimo. Noi abbiamo una politica agricola comunitaria che fondamentalmente continua a dare l'80% delle proprie risorse al 20% delle aziende. Abbiamo una spesa importante, 55 miliardi di euro è la spesa del budget europeo, che non è in assoluto tanto, perché in Italia significa il 2% della spesa pubblica, quindi l'agricoltura non è un settore particolarmente più sostenuto che altri settori economici, ma sono soldi importanti. Questi soldi importanti, come tutti vogliamo, i cittadini pretendono che ci sia una qualità della spesa. E allora, se dietro questi grossi e importanti finanziamenti abbiamo un modello agricolo che invece va in tutt'altra direzione, perché ancora noi sosteniamo troppo la rendita fondiaria, è assolutamente impensabile che noi continuiamo a distribuire gli aiuti in agricoltura in base alla superficie. Ma che senso ha? Non è la superficie che determina la qualità del nostro ambiente, sarà l'occupazione, sarà come tu gestisci il paesaggio, saranno le pratiche agricole. È mai possibile, per esempio, che l'agricoltura biologica, che quantomeno da un punto di vista agronomico tutti quanti concordano sulla sua, diciamo, buona pratica, e sicuramente è un'agricoltura che favorisce la biodiversità, è un'agricoltura che favorisce il nostro paesaggio, la presenza delle siepi, la diversità in assoluto. È mai possibile che l'agricoltura biologica è quella meno sostenuta di tutti alla fine? E qui veniamo su un problema tutto lombardo. È mai possibile che la regione dove c'è il più alto concentrazione di consumo di prodotto biologico è la regione che ha meno investito in assoluto in politiche agricole per lo sviluppo dell'agricoltura biologica? Il numero di aziende agricole biologiche in questa regione è ridicolo. Questa regione è la regione più importante in termini agricoli del paese. Non è una, cioè, tutti conosciamo la Lombardia come una regione industriale. Tutti lo sanno, sappiamo pure che è uno dei luoghi più ricchi d'Europa, ma è anche un'importantissima regione agricola. È la regione dove si concentrano il più alto numero in quantità di risorse della PAC nel nostro paese. Non è pensabile che queste risorse non siano a disposizione di un modello di agricoltura veramente sostenibile e che il biologico sia stato in assoluto il modello agricolo più penalizzato. Se noi abbiamo così poche aziende è perché non ci abbiamo investito, non è perché l'altra agricoltura, quella più diciamo legata a un modello agroindustriale, in questo momento veleggia in condizioni economiche talmente avvantaggiate per cui nessuno vuole fare la conversione. Perché poi, e probabilmente i miei colleghi me lo diranno, non è che l'agricoltura lombarda veleggia una situazione di grande ricchezza, perché ci sono interi settori a partire dalla zootecnia dove la situazione è drammatica. È drammatica perché continuamente in agricoltura noi stiamo in una situazione in cui i costi di produzione sono sempre superiori ai nostri prezzi di vendita. E allora noi non possiamo non interrogarci su come dobbiamo convertire il modello agricolo di questa regione. E qui c'è un ruolo fondamentale delle istituzioni, perché abbiamo dei cittadini che chiedono un altro modello e questo è evidente. C'è una sensibilità della società in questo senso, cittadini che sempre di più, e questo è un tema che dobbiamo iniziare a chiarire, vogliono parlare di politica agricola comunitaria. Cioè la politica agricola comunitaria è qualcosa che deve occupare la vita del nostro quotidiano, perché determina quello che mangiamo, determina il nostro paesaggio, determina chi deve coltivare in questo paese. Questi elementi non possono essere degli elementi che vengono lasciati alla decisione di pochi, sono qualcosa che sono il nostro quotidiano, quindi i cittadini che finanziano la PAC, perché questi sono tutti soldi pubblici delle nostre imposte, devono essere partecipi di questo processo decisionale e le istituzioni hanno un ruolo importantissimo su questo e la società oggi chiede una legittimità della spesa pubblica. Legittimità della spesa pubblica significa che noi dobbiamo spendere bene i soldi e dobbiamo spendere per quelli che sono i fini della sostenibilità ambientale, del mantenimento sociale di un ambiente rurale vivo, di una qualità della vita dell'ambiente rurale, di tutte queste cose messe insieme. Però là dobbiamo iniziare a fare qualcosa. E mi sembra, e questo parlo ai nostri amici, che invece le risposte ad oggi siano un pochettino conservative. Cioè è molto legato a una questione di finanziamenti. Noi abbiamo 6 miliardi e mezzo di euro che arrivano dall'Europa all'Italia, la battaglia sarà sicuramente sulle risorse a livello europeo, il primo obiettivo è tentare di portare a casa questi 6 miliardi e mezzo di euro, ma non basta, perché le aziende stanno chiudendo. Cioè la qualità di come spendiamo questi soldi è fondamentale e quindi qui significa che dobbiamo fare anche delle regole chiare, delle regole che veramente permettono alla piccola e media azienda di continuare a vivere. Regole sanitarie, regole per l'accesso ai mercati. Non è possibile che per organizzare un mercato contadino dobbiamo fare una quantità di domande e di autorizzazione che di fatto impedisca la realizzazione dello stesso. O le norme sanitarie che chiedono alla piccola azienda esattamente gli stessi modelli di una grande azienda di trasformazione come può essere la Danone o la Parmalat. Allora tutte queste regole vanno inserite anche. Allora tutto questa cosa va fatto, vanno fatte soprattutto con scelte più coraggiose. E su questo non è un fatto che tutta l'agricoltura deve diventare biologica, ma sicuramente il biologico ha avuto un ruolo per promuovere dei modelli che in qualche modo stanno dando delle risposte rispetto a quello che oggi la società ci richiede e dobbiamo avere la capacità quindi di essere un pochettino più coraggiosi. Sulla base di questa riflessione poi capire quali sono gli strumenti è un po' la nostra sfida. Salutiamo l'assessore che ci raggiunge. No, no, vabbè, io ho finito, quindi passo io. No, no, no, no, tranquillo, io ho finito. Le cedo io il posto. E quindi per finire, fondamentalmente, salutando l'assessore, l'importanza che abbiamo a livello territoriale nella definizione delle politiche è sostanziale, perché la politica agricola comunitaria, appunto, proprio perché è così importante, non può passare sotto silenzio. E in questa nazione noi abbiamo una Costituzione che ci dice che l'agricoltura è di competenza delle regioni, e c'è un insieme che è la Conferenza di Stato-Regioni che definisce quelle che devono essere le priorità dell'agricoltura italiana. E allora noi abbiamo una responsabilità forte delle regioni in questo momento nella definizione